3, 2, 1. Puntata numero 17 dell'incredulo, l'incredulo di Radio Big World, l'incredulo che sono io. Ma perché sono incredulo? Dice, ma che sei, San Tommaso? No, incredulo perché siamo circondati da persone che dicono all'energia, alle costellazioni e lo zodiaco. Pensate che Ronald Reagan, prima di scegliere la data per gli eventi di Stato, chi consultava? Il Senato, il Congresso, la Corte Suprema? No, la sua astrologa personale. Pensate che alcuni trattati importantissimi a livello internazionale, per esempio il disarmo dei missili SAT, come si chiamavano, e di fatto l'ha deciso un'astrologa. E al Congresso degli Stati Uniti stava bene, agli elettori degli Stati Uniti stava bene, e la Corte Suprema, invece di far internare il presidente, praticamente lo hanno fatto santo subito. Per cui determinate cose, anche se non ci credo e non ci crederò mai, effettivamente chissà, hanno un impatto su di noi che i galileiani, un po' come me, probabilmente così al principio non concepiscono. Tra l'altro, diciamolo ai galileiani come me, che Galileo non fu condannato per le sue teorie astronomiche, ma per quelle astrologiche, che è una cosa diversa. Ossia, sì, osservava il cielo Galileo, ma le sue credenze erano molto più metafisiche e esoteriche che fisico-scientifiche, come lo intendiamo noi. Ma io, che me ne intendo pochissimo, tanto di esoterismo quanto di esoterismo, tanto di scienza come di magia, mi serve, è importante che ci sia qualcuno che mi guidi in questo mondo che è fumoso, ma che appare da lontano, forse come un miraggio, ma forse è più reale di un miraggio. La nostra guida del deserto, la nostra nave che ci guida nelle sabbie delle conoscenze un po' di nicchia e allo stesso tempo un po' particolari, è naturalmente Elisa! Buongiorno Giorgio, mamma mia, oggi che introduzione bellissima hai fatto. E buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. Spero di non deluderti con la puntata di oggi, che è un po' particolare. Mamma mia, particolare. Avevamo detto che parlavamo delle relazioni che ci sono tra la teoria di Planck e la costante di Heisenberg. Allora, cominciamo dall'inizio. Parleremo di gratitudine. Gratitudine, ok, d'accordo. Gratitudine in che senso? Nel senso di gratis? Nel senso di essere grati per quello che ci accade. Che oggigiorno è una cosa un po' rara. Io non so quante volte ti capita di sentire un grazie. A me poche, molto molto poche. Molto poche, e a volte quando lo si usa le persone quasi si offendono. Una volta mi ricordo un cameriere che a un certo punto gli disse a un signore: basta di dirmi grazie, io sono qui a lavorare e non gradisco questo tipo di attenzione. È una parola che magari quando noi eravamo bambini ci insegnavano, no, sempre a cosa devi dire. Quindi tutti grazie in coro, era un segno di buona educazione che celava tante cose, nel senso che comunque sia la parola grazie e in sé per sé la gratitudine, oltre ad essere una forma, diciamo, di cortesia, è un modo per ringraziare la vita e l'universo per quello che ci ha donato, anche per la minima cavolata. Te lo racconto perché una ragazza stamattina fuori con i cani all'alba, e io di solito quando sono fuori con i cani all'alba sono in modalità zombie, mi ha chiesto un'informazione. Mi ha chiesto un'informazione e era così contenta che mi fossi fermata a darle questa informazione, nonostante fossi abbastanza rincoglionita e piena nel sonno, che per 3 volte mi ha detto grazie, ma grazie proprio di cuore, come se l'avessi salvato la vita. Io sono rimasta abbastanza stupita da questa cosa. Questo ti fa capire anche come nel mondo di oggi siamo sempre meno propensi a voler dare una mano agli altri, no? Senz'altro, senz'altro, è un mondo che si sta atomizzando. Il fondatore, uno dei fondatori di Facebook, quell'indiano con il nome impronunciabile, sta facendo il giro dei media statunitensi proprio per avvertire che quel tipo di attività, in particolare quella social, ma poi tutto quello che ci sta dietro, e quindi tutto il business di Google, di Facebook, di fatto stanno distruggendo il tessuto della società e il tessuto delle famiglie. Quindi siamo sempre più soli, siamo sempre più individuali e individualistici. In questo panorama, senz'altro, la gratitudine non ci sta. E Elisa, allora, perché se ci spingono a essere ingrati, tu invece dici che la gratitudine ha un'importanza? Ha una duplice importanza. Ha un'importanza verso gli altri, no? O, come ti dicevo, è una forma di educazione. Ma serve anche per superare le nostre barriere e quindi raggiungere una dimensione più emotiva e personale con la persona che stiamo ringraziando. Ma soprattutto gli diamo un valore, quindi riconosciamo agli altri i pregi e le caratteristiche che lo contraddistinguono. Ma la cosa forse più importante della gratitudine è che noi non ringraziamo mai noi stessi per come siamo, con i nostri pregi, con i nostri difetti, per la nostra integrità, per il nostro coraggio di affrontare la vita, per la nostra forza. Siamo i primi che, diciamo, non mostrano un ringraziamento a tutto quello che per noi stessi e per gli altri facciamo tutti i giorni. C'è un famoso detto di un cinese che diceva che la gratitudine è la memoria del cuore. Il chakra del cuore, come ti avevo detto, no, ha duplice valenza, è volersi bene, prendersi cura di sé. La gratitudine fa proprio parte del cuore e noi lo perdiamo perché siamo sempre di più obiettivi, razionali, facciamo prevalere i rancori e le frustrazioni piuttosto che alla gioia e alla felicità. Quindi secondo me è più facile, no, che uno rimanga arrabbiato una settimana per una persona che ci ha fatto un torto piuttosto che ricordarsi quel giorno in cui invece una persona ci ha fatto un piacere così tanto grande da riempirci il cuore. Uno youtuber molto famoso che si occupava di spiritualità e di gnosi in particolare, poi si sa che dopo faceva addirittura altro, diceva, però secondo me con senso, il fatto che ci sono moltissimi che leggono libri che riguardano la gratitudine o ascoltano altri youtuber, telepredicatori che parlano di ringraziare, e lui diceva poi come deficienti vanno per le strade, pigliano gli sganassoni e dicono grazie, e in realtà in quel caso lì probabilmente da ringraziare c'è ben poco. Allora, come funziona la gratitudine? Ossia, è chiaro che il porgere l'altra guancia è una allegoria e che va preso in senso più ampio, e probabilmente lo stesso è la gratitudine. Come utilizzare, Elisa, questo strumento? Ah, sicuramente non ringraziando chi ti dà uno sganassone, ecco, quello non di sicuro, non è il senso della gratitudine per come viene intesa anche secondo la legge dell'attrazione di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. La gratitudine è un modo di vivere, cioè è un modo di essere grati al mondo e a noi stessi per i piccoli gesti che ognuno di noi fa e ognuno di noi fa verso noi stessi e verso gli altri. Quindi, Elisa, la gratitudine in qualche modo fa superare il conflitto con gli altri e il conflitto con noi stessi. Esatto, per prima cosa aiuta a aprirci emotivamente, sia verso noi stessi che verso gli altri. Noi spesso cerchiamo la riconoscenza degli altri, spesso ci aspettiamo che un nostro gesto abbia un ringraziamento, no? Quello che noi facciamo, che ne so, aiutiamo una vecchina a attraversare la strada. Oggigiorno è più facile che ci prenda a bastonate piuttosto che ci ringrazi per averla aiutata. Come Ben Hill, proprio come nelle gag di Ben Hill. Sì, sì, decisamente è così, è vero. E in noi, anche se ormai siamo abituati, no, a queste scene abbastanza tristi, quello che ci aspetteremo è che questa signora si girasse dall'altra parte e ci dicesse grazie. Chiaro. E noi siamo i primi che magari una persona si ferma o la macchina ci fa attraversare fuori dalle strisce, che è più facile lo mandiamo a quel paese che lo ringraziamo. È la società moderna. Invece la gratitudine è cercare di aprirsi emotivamente agli altri e quindi vedere noi stessi come parte di una società e essere grati per ogni piccola cosa, da chi ci dedica un minuto di tempo a chi ci aiuta a fare qualcosa. Che differenza c'è nel modo di condurre la vita e in particolare nel ricevere, mi tocca dirlo, dai, nel ricevere dalla legge dell'attrazione eventi e congiunture positive piuttosto che negative? Che differenza c'è a essere grati e a essere ingrati? Come cambia la vita di questi due soggetti? Allora, le persone, diciamo, che non mostrano gratitudine di solito sono persone diffidenti e che agiscono in maniera autosufficiente, ma mancano di autostima e dentro sono piuttosto fragili. Quindi sono gli sbruffoni, no? Sì, come sì. Si diceva da bambini, lui fa il duro, ma è il primo a essere quello che in realtà soffre di più dentro. Pensate. Sono persone molto, ingrate, ma questo è innato, ma anche molto superbi. E anche questo ti fa capire quanto in realtà siano persone che mancano di una forte autostima. E non mostrano né riconoscenza verso gli altri, ma soprattutto non mostrano riconoscenza verso se stessi. Quindi si credono, anche se dal di fuori, no? Fanno vedere, come sono sbabbati. Sì, sì. Dentro in realtà si tormentano. Si tormentano, ma non solo, si diminuiscono, si demoralizzano, si sentono sempre di non aver fatto abbastanza per se stessi. E le vedi tutti i giorni, perché tutti i giorni siamo noi circondati, ma siamo noi i primi a essere frustrati con noi stessi e con la società. Sì, sì. Ma hai parlato di chakra del cuore. L'ingrato, quindi colui che difficilmente dice grazie e difficilmente lo dice di cuore, questo atteggiamento, questo comportamento ha poi delle ripercussioni, per esempio, sulla salute e sulla condizione del corpo? Assolutamente sì, nel senso, se sei una persona che è sempre rancorosa, sempre tesa, sempre arrabbiata, hai ripercussioni a partire da dove si addensa questa maggior parte di questi malesseri, quindi nella parte dell'addome. Il fegato è la parte dove si addensa la rabbia, quindi poi tutta un dolore a livello addominale e anche una chiusura e una pesantezza a livello del cuore e dei polmoni. Un noto rabbino americano, parlando dell'ira, l'ha definita come un veleno, quindi ogni volta che ci si arrabbia è come se si prendesse una boccetta di veleno, un po' come fece Giulietta nell'omonima opera di Shakespeare, ammesso che l'abbia scritta lui o che lui sia esistito, e qui si apre un mondo. Ma a parte questo, mettiamo che nella nostra vita di tutti i giorni una persona attraversa la strada, una macchina gentilmente si ferma, ma quello dice guarda sti guidatori mi inquinano, li ortacci loro, oppure va dal macellaio, il macellaio dice alla signora le regalo un paio di salsicce, quella sì, tanto a te non ti costa niente perché chissà quanti soldi evade allo Stato. Ecco, questo tipo di atteggiamento è anche questo da considerarsi veleno? È da sicuramente da considerarsi veleno, perché intanto innesca un'energia negativa all'interno di te e delle persone che ti circondano. Se si ritorna a lavorare, no, sulla legge dell'attrazione, se tu ti comporti così, quello che attrarrai la prossima volta sarà una persona che non sarà più gentile, ma ti mostrerà odio, e questo farà sì che si innesca un circolo vizioso, no? Per cui l'odio genera odio, e quindi poi sarai sempre meno grata della vita di tutti i giorni. È sicuramente un male, e uno dei mali peggiori che la società possa fare all'uomo. La gratitudine è una cosa molto semplice, perché non significa nient'altro che riconoscere e unire e creare dei legami, quindi essere grati alle persone per quello che sono, non per quello che fanno, per il loro modo di essere, per arricchire la nostra vita anche con dei piccoli gesti banali come fermarsi alle strisce, regalarci due salsicce. E quello che si aspetta la persona non è avere un debito con te, quindi tu mi hai regalato due salsicce, la prossima volta vuol dire che o tu vorrai comprare di più oppure mi farai un favore. Ma alla Fiorentina, che... sì. Esatto. Quello che significa è solamente essere felici di aver fatto un piccolo gesto per gli altri. È quello che ci ha allontanato tanto dal vecchio modo di pensare del branco, no? Della società. Se te pensi, gli animali fanno questo tutti i giorni fra di loro. Un branco di lupi, ognuno di loro ha dei loro compiti, ma non lo fa perché è in obbligo, lo fa perché fa parte della vita di branco, e sono grati se qualcuno si occupa di quello, si fanno delle gentilezze, si fanno delle carinerie, si supportano e si aiutano a vicenda. Pensa nell'uomo quanti meccanismi in un certo senso sono andati storti. Elisa, da quello che ho capito, la gratitudine è un valore di base su cui poi si costruiscono tutta un'altra serie di cose, tanto fisiche, per esempio la salute, quanto metafisiche, la legge dell'attrazione. Ma è da considerarsi ingratitudine, al di là del non dire il banale grazie, anche il parlare male degli altri, la mala bocca, lo spettegolare, il criticare, il lamentarsi, li vedi come parte di questo processo ingrato? Sicuramente nascondono tanto dietro, che può essere anche non per forza mancanza di gratitudine verso gli altri. Io la vedo proprio una mancanza di gratitudine verso noi stessi, che è secondo me la cosa che noi dobbiamo imparare per prima cosa. Quando ti parlavo del chakra del cuore, ti dicevo che è diviso in due parti: l'amare se stessi, quindi il soddisfare i nostri bisogni, e il prendersi cura degli altri. La prima cosa che noi dobbiamo imparare è amare noi stessi. Se noi amiamo noi stessi e quindi siamo contenti di come siamo, pregi, difetti, ognuno di noi vorrebbe essere qualche cos'altro, vorrebbe essere migliore in quello o vorrebbe essere migliore in quell'altro, vorrebbe magari avere una vita diversa da quella che ha, e spesso si dimentica che comunque sia essere qui tutti i giorni, essere in grado di fare le cose che siamo in grado di fare tutti i giorni, è un modo per, è qualcosa per cui noi dobbiamo essere grati. È una cosa che spesso, no, ci dicevano magari ai corsi di religione, al catechismo, che dovevamo essere grati per le piccole cose, che la vita era bella così com'è. Io non voglio addentrarmi negli aspetti religiosi, però è vero, perché se noi ci svegliamo la mattina siamo felici della giornata, anche se non andrà esattamente come vogliamo, però di averla fatta, di essere comunque riusciti a arrivare in fondo, aver comunque, che ne so, essere grati perché oggi dopo tante tante giornate di pioggia c'è una giornata di sole, ci cambia la vita, e quindi non abbiamo più bisogno di spettegolare e di parlare male delle persone. Chi lo fa è sicuramente una persona che non è soddisfatta di se stessa e che vuole sminuire gli altri, perché comunque sia la sua vita, della sua vita non è grato per niente. Comprendo. E un'ultima domanda, una domanda che viene dal Giappone. È una storia ormai di una decina d'anni fa, dice che questo scienziato giapponese che aveva fatto le foto dell'acqua, ma forse non era lui, poi dice era un fotografo, qualcuno dice che è tutta una bufala, fatto sta. Questa è la storiella, due bicchieri di riso, entrambi pieni d'acqua, con il riso dentro ovviamente, a un bicchiere si dice ogni giorno grazie, a un bicchiere si dice ogni giorno parolacce o lo si offende, o come direbbe il mio nipotino, brutto, e nell'arco di 30 giorni il riso che ha ricevuto la gratitudine ha cominciato a fermentare, mentre quello che ha ricevuto i brutti nel muso è marcito e l'acqua si è imputridita. Questo esperimento l'hai provato? Funziona? O hai sentito di qualcuno che l'ha fatto? Oppure è una clamorosa bufala? Allora, c'è un video che ho visto appunto 15 giorni fa, che gira su YouTube, di una nota casa produttrice di mobili svedese che ha fatto un esperimento mettendo due piante in una scuola, e in una pianta, a una pianta venivano fatti un sacco di complimenti e l'altra invece veniva bullizzata. Pensate, la pianta bullizzata dopo 15 giorni era quasi del tutto morta. Pensate. E che davano la vodka, quelli sono dei briachi, sai te che gli hanno fatto? No, erano dei bambini, li avevano messi in una scuola, c'erano dei bambini che avevano dei compiti di dire parole carine, cioè hanno registrato delle parole carine, e degli altri bambini invece hanno registrato delle parole brutte. Era, vabbè, un esperimento contro il bullismo, per far capire quello che si prova, però ha un effetto veramente carino, insomma, da vedere. Ti lascia veramente tanto la mano in bocca, soprattutto per vedere quanto quello che c'è di noi intorno soffre del fatto di essere offeso e non essere esaltato. Alla fine ci insegna Elisa che siamo energia, cioè frequenze, le parole sono frequenze, trasmettiamo questa voce su delle frequenze, pertanto è alquanto probabile che un tipo di parola o un'altra abbia degli effetti non solo sulla pianta o sul riso, ma probabilmente anche su quello che ci circonda e sulle persone che ci circondano. D'accordo, siamo arrivati a, beh, non alla fine senz'altro del tema, perché il tema della gratitudine è un tema molto dibattuto, ci sono numerosissimi testi che ne parlano, anche dei testi più bizzarri gli dedicano tantissimo spazio. Comunque, mandiamo a quel paese la nostra, no scherziamo, la ringraziamo sentitamente la nostra Elisa, perché ci ha spiegato e ci ha introdotto a un qualcosa che diamo per scontato, ma che scontato non è. Grazie Elisa. Grazie a te Giorgio, e sono molto contenta che ti sia appassionato a questo argomento, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e spero che possiate trarre beneficio da queste piccole parole sulla gratitudine. Fate l'esperimento del riso e diteci com'è andata. Olè!